Sì, o meno tutti li ho utilizzati, i principali. L'unico che non ho utilizzato però è un grande microfono, lo Shure, quello che c'ha Franco. Vabbè, io poi c'ho microfoni per altre cose che posso adattare, ho fatto un, diciamo, un apparecchio dove posso mettere un microfono da voce col jack, anziché utilizzare il coso, c'è un adattatore per metterlo negli apparati, posso mettere qualunque tipo di microfono col mix e poi puoi alzare, regolare, fare quello che vuoi, ma adesso sto andando normale senza fare tutte queste elaborazioni di segnali, però posso intervenire su tutto io volendo, anche equalizzazione, eccetera. Quello col coso celeste, quello, anche quello è un ottimo microfono, sono i microfoni, all'epoca erano il numero uno, sono stati copiati da tantissimi produttori, però sempre che c'erano a quei livelli non ce n'è, solo lo Shure si può avvicinare come microfono, come qualità microfonica e spinta, perché microfoni ce ne sono centinaia, però che abbiano una nitidezza di voce pur aumentando l'amplificazione non ce ne sono molti, ce ne sono ben pochi. E il Tanner sicuramente è il numero uno insieme allo Shure, e poi c'è tutta la catena di tutte le imitazioni, però hanno dei compromessi, vari spingono però distorgono, oppure come aumenti la modulazione il livello microfonico ti cambia la tonalità, e così sono i due taggi, se tu lo prendi e ti metti a cosa alzare un pochettino vedi che tu la modulazione magari ti pompa un po' più di acuti, ti toglie un po' di bassi o ti dà più di medi, non ha un'amplificazione lineare, cioè è sporca, non lavora bene come amplificazione, mentre il circuito del Tanner è un amplificatore di assoluta qualità proprio per quello, perché quando alzi, anche se sollevi, non ti cambia i toni della voce. Sono degli sperimentati, hanno una cultura, la Tanner fa solo microfoni, è nata per fare microfoni, non fa altre cose, per cui c'è una specializzazione come la può avere anche la Shure, che fa altre, anche altre cose, la Shure, però sulle cuffie, sulle testine dei giradischi e sui microfoni la Shure è all'avanguardia, cioè a livello mondiale, e la Tanner non esiste più, però all'epoca era un grandissimo marchio americano che si è fatto conoscere in tutto il mondo con la qualità dei suoi microfoni. Diciamo quelli di nuova generazione sono quasi tutti a 9 volt, poi ci sono i microfoni, parliamo per baracchini, i vecchi tipo lo Shure c'avevano la batteria da 1,5 volt, poi c'erano anche altri più o meno di quell'epoca utilizzavano queste batterie particolari, ma sono in disuso, preferiscono utilizzare, aumentare la cosa, anziché aumentare la corrente, aumentare la tensione per avere più o meno la stessa durata. E gli apparati, quelli HF, lo stesso, hanno un'alimentazione interna, se la date direttamente dall'apparato non c'è bisogno di batterie. Break da bricco. È sempre bricco. Break da bracco, non break da bricco. Non è bricco, ma... Mannaggia la maglietta. Non puoi sbagliare. Ciao, Roberto. Basta dire break da Giovanni, oppure break. Poi io chiamo Giovanni le persone. A me non mi piace chiamarli con i nominativi, a meno che non ci sono i doppioni. Infatti io quasi tutti li chiamo sempre per nome. Raramente, a meno che non ce ne siano due. Se no, sempre per nome. Perché questo nominativo non è che mi piace più di tanto, dai. Io lo chiamo Giovanni, avanti Giovanni, di nuovo, che c'è anche Riccardino, avanti. Riccardino già l'ho sentito, ascolta Roberto, voglio fare quella prova un attimino solo se vuoi, mi ha dato l'impressione che stia uscendo, quindi se vuoi proviamo. Che frequenza? 145-550. Aspetta un po', sono un attimino Riccardi che sta facendo una prova in trasmissione, vediamo se sta uscendo. Io sono pronto. Sta facendo una prova Giovanni Bracco, e sta provando un apparato radioamatoriale, lui è un radioamatore, sta provando una frequenza, e mi ha detto una frequenza se lo ascolto perché c'era problemi sull'antenna, adesso vediamo un po'. Ehi, ok. Bracco, ci siamo. Giovanni. Qui ancora nulla, Anch'io sono sintonizzato lì. E Mario, tu sei più lontano? No, ieri ho fatto delle prove, ma arrivava a Santiago 3, 5, vero assoluto, c'ha problemi al PL, vediamo un po'. Sono pure io pronto, bravo, vediamo un po' se arriva anche qua. Salute. No, dico, attenzione per i finali se c'ha problemi al PL, se no rischia di partire la radio. Già lo so, ma non lo so, infatti qua arrivava a 9,40, un segnalone fortissimo, e ieri era a Santiago 3, 5 con l'altro apparato. Siete presente che c'ha l'antennina all'interno di casa, su terrazzino, non è esterno. Eia. veicolare? No, una mini grampe piccolina, mini, nel senso che la grampe è piccola per quelle frequenze, dai. Ehi, ehi, io sono in antennino, ma vediamo, comunque, dai. Tu sei anche più vicino, magari te ne rendi conto di più. Assolutamente no. 145 550, conferma? Sì, sì. No, a lui tu dice. D'altro che sta parlando, chi è? Era Marco, io sto ascoltando a 145 550, ma non sento niente, neanche un fruscio. Siamo qua, niente. Ma c'ha problemi l'antenna, arrivava a 9.40, anche di più, adesso non sta neanche uscendo. Poi portatilino con l'antenna in gomma usciva, arrivava a 5 ieri, 5 e 7, dai, con l'altro arrivava a 7 con quello di Riccardo. Vabbè, ma tu niente, no, già mi devi dare di nuovo per la patente. Mannaggia tempo Luca, dai, che cazzo. Ah, capito. È venuta quella persona Luca, comunque tutto a posto. Ah, ok. Tutto fatto. Robe, adesso sto uscendo con il portatile, dimmi se mi copi. Ho visto una portante. Santiago 7, però radio 0, non sento la radio. Dove non arriva? 145 550. Eia. Sì, sei uscito adesso, Santiago 7, radio già era chiara. No, dove non arriva? Santiago 7 con 7000, se attacco quello dedicato magari è anche più forte il segnale. Adesso sto uscendo con portatilino piccolo. Ma sta uscendo il 27 e coso e i 6 metri insieme, questa non l'avevo ancora vista, tutto in mescato. Ho detto di sì, Santiago 7, radio 5. Però il segnale è basso, cioè l'altra antenna non sta funzionando. Questo lo posso capire dentro casa, Santiago 7 va bene, ma deve uscire più forte l'altro, l'altro è zero. Attenzione che non bruci il finale, si attende. Chi c'è rimasto qua? Luca, Marco, poi chi c'è altri? Boh! Aspettiamo col telefono un attimino, scusate. Di chi sei o no, Roberto? Chi è rimasto su 10? Chi è che è rimasto stanno alle 10? Riccardo, chi sei o no? Sì. Tutto a fischi. Come sai? Io esco a fischi, non è possibile. Giovanni, stai saturando con quel microfono, stai parlando troppo forte, non va bene. Stai innescando di brutto. Spegni le altre radio, se no rompi tutto. Ma lei allora è stato fresco. Spegni tutte le altre radio, se no rompi tutto. Aspetta un attimo. Mamma mia, io quando vedo queste cose mi metto i capelli, vengono i capelli, bisogna stare attenti, soprattutto quando si utilizzano certi apparati che si bruciano e certe potenze. Quello a 100 watt quell'apparato. E coso, Luca, Eugenio, si è sentito stasera? Sì, è entrato un attimo. Comunque, ho sentito la verità di quel tipo di portatore smorto. Sono sante di quelle palle che hanno detto che hanno scritto allucinato. Ma quarantenne, poi ce ne sono altri 42. Come? Ho detto che erano quarantenne, poi ce ne era più di 50. No, ma hanno detto che era caduto dalla scogliera, che l'avevano buttato giù, che si stava ammazzando, invece non è vero. Si stava prendendo il sole e si è tolto la maglietta perché ci aveva caldo, perché ci avevano trovato nudo con dei graffi. Ed è cosa, si è pigliato un infarto, sicuramente un infarto, dai, un colpo, ed è morto di lì. Dove l'hanno trovato si stava prendendo il sole. Invece hanno detto che lo stavano cercando, che si voleva ammazzare, invece è male, mi ha raccontato gente che era presente in tutti i particolari. Era lì, sta prendendo il sole ed è morto di infarto. Mi volevano fare l'autopsia, ma si presume un infarto, perché dice, ho trovato uomo nudo in mare, caduto dagli scogli, invece no, se l'ha cavato la maglietta in cosa, in pantaloncini, in mutande, in cartoncini, e la felpa ce l'aveva come cuscino, ma dice, certo che l'hanno trovato nudo, che si sta, uno ha detto che l'avevano ammazzato, l'altro che si stava suicidando, l'altro che è scivolato pescando, ogni parte sentiva una balla, invece non è proprio così, si presume che lui si stava prendendo il sole, gli è venuto un infarto. Questi giornalisti, per carità, guarda. Non ti dico. Spero che ti dica. Aspetta, c'è Giovanni, avanti Giovanni. Ah, e adesso sto uscendo con baracchino, come mi stai copiando? Diciamo abbastanza bene, ma sei lontano dalla bocca. No, ho quattro dita sto parlando, no, poco fa ci avevo messo un modulatore, forse era per quello. Il modulatore, cosa è questo modulatore? Il modulatore che lo collega all'antenna e ti dà i segnali di se sta uscendo bene o male, ma a quanto pare era un pasticcio, boh. Ma dove il modulatore? Su questo baracchino? Sì, su questo, su questo, adesso l'ho tolto. Quello che le luci che fanno degli impulsi quando parli, mi. Sì, ma non serve a niente. So che abbia tutto che sono fesserie quelle lì, che cavolo. E perché Luca, quello del portatore, se lo conoscevi, quello che mi ha portato, quello che ci ha ammazzato quel ragazzo di 21 anni. Siamo attratto. Poverino, cacchio, mi è sceso un colpo, ho visto la fotografia, ma un bel ragazzo, proprio un bellissimo ragazzo, vestito in abito, tutto quanto, quando ho visto la foto ho detto no, non è possibile, si chiama un ragazzo che avevo allenato io, si chiama Federico, tipo Ponzi, un nome così, poveraccio, si è ammazzato questo ragazzo. Arrivo su Dora. Stasera. Ah, stasera è morto. Cos'è, l'ho chiamato, cos'è lui? Stasera è morto. A me mi hanno fatto vedere verso le 3, mi immagino che sia che era morto in quel periodo, ma quando ho visto la foto mi è sceso un colpo, ho detto no cacchio, perché un ragazzo che ha allenato io, ci siamo visti da poco pure eccetera, che gioca con una squadra famosa di calcio, non facciamo i nomi, c'ha lo stesso nome di questo qua, ho letto Federico, ho detto no, non può essere cacchio, c'ha quello lì, però c'ha 20 anni questo Federico che conosco io, di gennaio del 2000, questo ne ha 21, infatti ho detto ah no, no, meno male, nel senso è sempre una cosa bruttissima. È un ragazzo di 21 anni quando si ammazza, mamma mia. Ma se lo vedi, sembra un modello Luca. Tutto c'è, cioè, una foto del suo profilo, in abito, in cravatta, proprio un modello tipo di quelli che fanno le sfilate. Certo, Federico Ponzio. Così. Ma non c'è su Facebook. Non lo conosco io, non l'ho mai visto, però cacchio, un ragazzo giovane a togliersi la vita è assurdo, cacchio, è proprio fuori dalla realtà. C'è gente che lotta per vivere e uno cacchio giovane si ammazza. Tu lo sai cosa c'è in testa vostro qua? Noi non sappiamo niente, roba. Lo può fare chiunque. Magari lo potresti fare anche tu e dice, cazzo Roberto, non sanno la gente cosa c'è in testa. Purtroppo. Anni fa, un 3-4 anni fa, figlio di un'amica mia, 16 anni questo qua, si è buttato dal ponte di Rosello. Questo qua era adottato dalla famiglia, un ragazzo, dice, super coccolato, viziato, adesso ci aveva tutto, addirittura i genitori, perché ha detto voglio un po' di libertà, gli hanno comprato un appartamento e se ne andava con gli amici a divertirsi. Poi quando ne aveva voglia tornava a casa sua, si è seduto dal monte a 16 anni perché era stressato, ha lasciato una lettera che di questa vita era stanco a 16 anni. Quando questo? Oh, sarà un 3-4 anni fa, fai 4 anni fa, dai. Ah, ma Ponte di Rosello o Ponte Nuovo? Ponte di Rosello. Ah, avanti, Black. Che, avanti. E quando dopo grigio, stasera il 9-3, stasera, Santiago 9. Cos'hai detto? Non ho capito, Luca. Che Nicola Lupo Grigio stasera è a 9.30 da me. Adesso è Santiago 9, non so, ce l'hai copiato. Avanti Lupo Grigio, su. Ma cosa sta parlando basso basso? Sì. Ciao Riccardo, cazzo è Santiago 7 qua, basso basso. Come mai Nico? No, non ti ascolto, non ti capisco quello che dici. Ho detto 7 invece è Santiago 5, non 7, è mezzo al QRM, che stavo sbagliando il segnale. Ok, cosa ha detto lui? Come ricordo. Ma tu l'ascolti bene adesso? Sì, aspetta. Santiago 9 Radio 5 da me. Adesso è questo passaggio. Eia, robe. No, io così basso non l'ho mai sentito, ma vabbè, dentro casa allora. Nicola dentro casa, sì. Ha detto che era la finestra di casa sua, circondato da palazzi. Cioè, ha peggiorato adesso, ma non è con l'antenna esterna, no? No, con l'antennino. E perché non collega l'antenna grande? Cosa adesso? Io prima l'ascoltavo 9 a Nicola, vabbè quando saliva più su, ma anche di più, anche 9.5 arrivava, ma cacchio adesso non lo sento, Santiago 5 e 6, radio incomprensibile. Vabbè ma tu magari sei un copertino più nascosto, ma io l'ho sempre ascoltato, strano. Ok Nico, se mi ascolti mettiti con l'altra antenna così magari ti ascolto, se no non so cosa dire. Vabbè, ma dove vuoi andare con l'antennino? Luca a me mi ascoltava, ti ricordi Luca? La prima volta che mi hai ascoltato, Luca è stato, lo ricordo per l'ennesima volta, è stata la prima persona che mi ha ascoltato e mi aveva dato lui il nominativo, io ero Roberto, lui dovessi al quadrato, vabbè Roberto Quadrato, perché ce n'era un altro che era Roberto Meccanico, da giorno mi ha battezzato Luca in 27 e io uscivo con un baracchino portatile, come si chiama, un walkie talkie con un Intec, un cos'era, Multicom, non mi ricordo come si chiama, Handicom, non Multicom, con la tenina in gomma e Luca mi ha ascoltato basso basso eppure mi sentiva, non capisco come mai non mi sente, non riusciamo a sentire io con l'antenna grande a Lupo Grigio. Ehi, ne ho due di quelli, nuovi, più c'ho il 38, ne ho diversi di questi portatilini, almeno 6 o 7. sì, ce l'ho anche io, l'hanno aperto per quello che c'ha i numeri rossi. E l'endicomo ce li ha verdi. Vabbè, permettimi l'ultima prova, eh. E adesso riaccendo, dai, vediamo se è la volta buona. Scusate un attimino che provo a parlare. Giovanni, avanti Giovanni, fatti sentire, come diceva qualcuno, buttaci tu. Comunque ci conoscevamo con coso, Luca, con quella persona là. Infatti ha trovato subito il posto, poi ci avevamo fatto una bella chiacchierata. Vabbè, sto uscendo, mi stai copiando? No, assolutamente no. Sto uscendo in questo momento, dimmi se mi stai copiando in 145, 550. Ma non ci sono la luce. Niente, niente. Ma ci sono la luce. Non la luce. Il display è acceso a me. Non ho capito, il display è acceso. Quando lo trasmette la gente, si accende il display. Però non si è sentito la voce. Aspetta, avanti di nuovo, Giovanni. Non sta uscendo di radio, Santiago 4 non è senza radio. Giovanni, non ti ascolto, niente, poco fa del 4 radio 0. Punto, no, voglio andare alla parete a controllare, a chi mi consigli di darlo per controllarlo, per sapere il guasto, c'è un guasto certamente. Ma io verificherei l'antenna, anche con col portatile, non esci neanche col portatile con l'antenna, secondo me il problema è l'antenna, con l'apparecchio va in protezione se non c'è, se ci sono le stazionarie troppo alte. No, non esce proprio, non escono i watt, capito? Non so se ne do idea, c'è anche l'apparecchio per provare le stazionarie, ce l'ho, però non me ne sento. Proprio, non so se ne do idea, cioè non esce proprio per nulla. E che apparecchio c'è? Ci vuole dedicato a quella frequenza lì, il Rosmetro per la 27 non va bene, ci vuole uno che arrivi almeno a 200 mega. Ma questo diciamo ci arriva, cioè, allora il Rosmetro è ERE Italy HS52B. Per gli HF non è per i 6 metri, non fa, non accorda. Allora una volta quando uscivo con questo me ne segnavo, ora che ti dico, adesso me ne segna. Io non lo so, magari è in protezione. Se c'è l'antenna in corto, il baracchino, chiamiamolo baracchino, l'apparecchio, molti vanno in protezione, c'è un sistema di limitazione della potenza e non va. Sì, va bene, se va in protezione poi però ritorna, porca miseria, non è che sta sempre in protezione, no. E come fa a ritornare se non c'è antenna? Logico carico fittizio, attaccarlo all'MT3000 e veda se sale l'indicatore che c'è nell'apparecchio. Dice provarlo carico fittizio. Ma adesso ci provo, va, continuate. L'attacca direttamente al carico fittizio, sotto c'ha un display a barre fluorescenti e vede se sale di potenza. Io sono sicuro che il problema è l'antenna, perché ha provato anche il portatilino ed esce Santiago 4-5, che cavolo stiamo a dire. Cos'è Riccardino? Ehi, adesso ci siamo ben volentieri. Vai Luca per il saluto a Riccardo. Forse Luca non c'è più. Marco, ci siamo. Ciao Riccardo, sono tra un messaggio e l'altro. Dai, ciao Riccardo, ci sentiamo, buonasera. E quindi, morale della favola, qua non è arrivato comunque mai, a 5.50, te è arrivato, sì. Sì, sì, mi è arrivato col portatile, Santiago 7, radio 5, vabbè, il CR7000 è un po' più avaro perché tarato lo Smith era 300 microvolt per un S9, per cui dovrebbe essere un Santiago 9, come indicato, ma è basso 9, lui con l'antenna esterna, l'antenna dedicata, l'altro giorno è arrivato a 9.40, anche di più, seppur la potenza arriva anche di più. Vabbè. Che è avanti? Ciao, ma che antenna sto usando in quella ma a California? Ma c'è questa California? Chi è che stava provando 550? 550 stava provando Giovanni, un radioamatore. Non ho capito chi sei però, scusa. Ehi, Franco, da te. Ah, Franco da sotto, non sei Franco California, scusa, ho sbagliato. No, negativo. Ho sentito che stava usando una Grand Prix. Sì, c'ha non una Grand Prix, c'ha un'antenna per i 6 metri dedicata, però secondo me c'ha qualche problema perché l'altro giorno, sino a due giorni fa, andava perfettamente, apriva, gli ho messo i punti, i tuni, perché non aveva su quel ponte dell'R2, come si chiama, quello che c'è a Porto Torre, se non mi ricordo, l'R2 Alfa, quello lì non era impostato su 74.400, era 88.8, per cui non riuscivo a eccitarlo, se l'ho impostato, poi pensavo che l'apparato funzionasse, invece niente. C'è qualche problemino, adesso gli ho detto attaccati su carico fittizio e vedi cosa succede, se sale di potenza. Come poco fa quando si è acceso lui, qua mi è arrivato a fare scala. Ma 6 metri robè, 2 metri vorrei dire. Ho detto una grande fesseria, 2 metri. se metti sono i 50 mega, ti ho detto una grande flessibilità. Poi parlo a strano. Infatti un'antenna poi viene male, un'antenna nata per i due a dare pericoloso, vabbè, ma riaccordandola già ci riesci a farla uscire. Prego, che ho detto poco fa. Scusate, non ho capito. Ho detto che poco fa, l'hanno trovato provato. Qui è il corno schiacciato, qui è uscito, è bene, che qua mi è arrivato a fondo scala. È il radio che non l'aveva. Ma non era lui sicuramente, perché io ce l'ho vicino a pochi centinaia di metri e qua quando è giusto c'è 9.40, anche 9.50 arriva, e come si chiama, a fondo scala con l'apparecchio, col dedicato, col 711 o col veicolare arriva a fondo scala, con le 7000 arriva 9.40 perché è un pochettino più diversamente tarato come apparato, e lui non è possibile, non era lui assolutamente. Bravo. Io proprio quando stava provando lui e stava schiacciando proprio quando stava qua. Ma tu dove sei a sorte? Trappa. No, non può essere Trappa. Beh, volendoti bene anche l'antenna super performante 50 elementi direttiva non è possibile, perché lui è dentro casa con l'antennino Gran Plena all'interno del terrazzino, è matematicamente impossibile. Già non rubi lui, l'ho preso 7 e se siamo, ti ripeto, in linea d'aria saremo a 300 metri. Ah, ecco, allora no. Sì, sicuramente vale qualcuno, una coincidenza, dai. Ok, vediamo un pochettino chi è rimasto qua. Franco ha una domanda, come mi ascolti lì tu? Sì, 7 Radio 5. Il segnale tuo lo stesso 7 Radio 5. Ok, c'è Luca, c'è ancora, avanti Luca. Però non basso a me, Franco, mi senti? Sì. Sì, che ti sento, sì, no? Invece il segnale 1 ha modulato 3. Un altro QTH. Ah, ok, va bene. Nei picchi comunque arrivi a 8, Franco, la radio è buona. Che cos'è, che apparato è questo? President Link. Grande radio, bellissima radio. Sono sempre piaciute, magari in coso, in ricezione non sono in granché, ma in trasmissione sono eccellenti. Ecco. Ti sei aggiornato qualcosa? Ha aumentato, Franco? Ho volato perché stavo spegnendo un'altra radio. Va bene così. E adesso sei oltre 9, dai, il segnale. Sempre la stessa radio o un'altra? No, sempre la stessa. Ti sei aiutato, dai. E il microfono va a stare utilizzando? MC60. Ah, vero, infatti, una bella radio, complimenti. Ok, e viene alimentato con cosa? Gli ho messo un alimentato meno, un'altra alimentazione. Una batteria separata? No, due batterie da 1,5 e basta. Ma io non ho visto aperto, c'è lo spazio per mettere le batterie nel 60, no? Certo, lo vendono già con l'apposito attacco batterie. Però non l'ho mai fatto, il mio è tutto normale, come la casa crea, come Cirio crea, cos'era? Come natura crea, Cirio, così. Cirio conserva. Ma era come natura crea, Cirio, non era così. Ah, Robè, una cosa, io delle MC60 non sapevo nemmeno che servivano batterie. L'ho saputo da poco, ma una conferma l'avevo avuta da Benito, quando gli avevo dato il 140 con le MC60, dice che era il vano batteria, era tutto in disordine, tutto a pezzi, e io manco sapevo che avesse un vano batteria quel microfono, quindi non era nuovo come quando me l'hanno venduto, era già mano messo. No, tieni presente che la batteria devi togliere il tappo, non è come il classico microfono che togli il coperchietto e infili la batteria, non è così. Poi ho scoperto anche io, l'ha scoperto anche Claudio perché me l'ha fatto notare anche lui, e ci sono dei 60 che non hanno l'esclusione dell'amplificazione, almeno nel fondo. Molti, la maggior parte, hanno una specie di interruttore e un commutatore, dai, chiamiamolo, anzi è più giusto un interruttore, che accende e spegne l'amplificazione. Sì, è vero. Come si chiama? In-out, roba del genere. Sì, diciamo in diretto, in vuol dire ingresso, out, uscita. Probabilmente lo fai dare direttamente senza, eliminando il circuito di preamplificazione. Ma non me ne è mai capitato uno di quelli, mai. Tutti col pulsantino. Sotto nel fondo? Sì, sia sotto nel fondo sia sul microfono. No, va bene, nel microfono c'è il cambio di impedenza, e l'interruttore on off se lo vuoi utilizzare come microfono per voce e per altre cose, diciamo, anziché attaccarlo agli apparati come classico microfono per parlare, karaoke, cose del genere. Il mio non ce l'ha l'interruttore sotto, probabilmente ce l'ha all'interno, non l'ho mai aperto. No, se non ce l'ha all'esterno non ce l'ha neanche all'interno, perché si devono vedere da fuori quei tattini, perché il tattino, se tutte le volte allora dovresti intervenire a togliere il fondo per intervenire lì. Vabbè, ma questo tipo di microfoni non è che stai sempre cambiando radio, facendo, amplificando o non amplificando, una volta che è regolato lo tieni così e non fai niente. E io sono sicuro che c'è, perché non credo che abbiamo modificato il circuito, questo è tutto originale, il microfono, probabilmente è una serie diversa, quelli marcati, diciamo, i primi salti, perché questo microfono è nato come trio, come origine, e dopodiché è passato alla Kenwood, è stato assorbito. E Mari è ancora come coso trio, e qua sono stati magari quelli di prime serie, secondo me è successo così. Io non mi è mai capitato la verità, non sapevo neanche che esistessero così. Registrato il break. Quel pulsantino. Va bene, comunque buonasera a tutti, scusate se sono stato male educato. Ciao a tutti, dai. Ehi, c'è stato un break, ma andiamo avanti, il break. Roberto, sono sempre io, con lo scooter se sono entrato a gamba tenda. Come mi dicevi adesso, capo? Santiago 7, radio 5, dai, tendente al 5, quasi 5. Sto provando un'antenna che mi ha dato tanto, una boomerang. Tassi alla 9.39, Non ho capito, scusa la luce. Ho detto che tassi alla 9.30, adesso è 9, Ma scusa un attimino, è questo che non riesco mai a capire, perché molte volte i segnali cambiano. Ma tocchi l'antenna, Luca dice che eri 9.30, adesso sei 9. Da me, quando eri interrato arrivavi oltre 9, 9.5 con l'antenna del portatile. Adesso, poco fa non ti sentivo, adesso sei Santiago 7. Come mai questi cambiamenti? Ma tu l'antenna la sposti? Cosa fai? Ma di quale antenna stiamo parlando? Ma tu che hai messo? Una boomerang? Che antenna hai messo? Io non lo so, la novità l'ho saputo poco fa da Luca, dice che hai messo un'antenna, quella che aveva Franco, cos'è una Game Master, una boomerang? Che antenna? Ma è una boomerang, ma io ricordo che sono tutto circondato da palazzi, capito? Sì, sì, no, ci credo benissimo, però non sei così lontano tu per sentirti basso, Santiago 7, cioè io ti dovrei ascoltare molto più forte. Naturalmente non so, ma tu stai utilizzando il palmarino sempre? Ah, c'è da dire che quello ti tira 2 watt, non di più. Magari se tu attacchi un veicolare ti dà 5 watt effettivi il segnale, per quello che sa, quello non dà più di 2 watt quei baracchine. Va bene, comunque adesso finché non faccio voice metro le misure prime, cerco di parlare poco con pesante, come mi ha suggerito Franco. Un attimino, qua 9.20 è come prima. Luca, ti volevo dire, però Luca, tu mi hai detto che il tuo Smith sta ballando l'ula hop, mica non dipende da te. Ah, mi vale male l'ula hop in trasmissione, no, il ricettore è perfetto. Ah, in trasmissione, io avevo capito un'eccezione, Sio Maria, vai robe. Lupo Grigio, una domanda, Nicola, per gli amici. Tu c'hai la piena potenza, quello dovrebbe avere 2 potenze, minima e massima, così. Ti confermo, io in teoria sono sui 4 watt. Cioè, quindi c'è la potenza massima, dichiarati 4 watt che poi effettivi sono 2 watt. È quasi un watt con la minima potenza, dai. E diciamo sono un po' voluminose, dichiarate troppo alte con le potenze, dai, comunque già ti ascolto bene, da radio è quasi 5, segnali è 7, dai. Sì, va bene, allora grazie per il controllo, rimango in corretto. Ok, c'è anche Franco da Sorso, non so se ti ascolta, l'hai sentito Franco? No, negativo, non lo sento per niente, non lo sento. Va bene, dai. Io vi saluto perché mi stanno chiamando a mangiare, mi sono arrivati adesso. Ci sentiamo, dai. Magari se ci sente dopo mi faccio una scappatina qua su. Ok? Riprendi Roberto e fai girare a tutti. Salutoni a tutti quanti, dai. Ehi, ciao Franco, mi hai sentito? Io mi trattengo ancora un pochettino, poi vediamo un po', finché riesco a rimanere, dai, mi hai sentito? Ti rilancio Luca che passerà il microfono a cosa, a Marco. Ciao Fra, sei arrivato l'off, ciao, buonasera, buon tutto. Alle prossime. Cazzo, qui mi sta bloccando, porca paletta. Ehi, a lui posso fare anche di meglio, ciao a tutti. Ciao Fra, ciao. Sì, all'inizio anch'io non ti stavo riconoscendo per via del segnale basso, probabilmente eri liscio. Adesso è consueto adesso il segnale, dai. Vabbè, io ancora sono a farmi il caffè, sono mal di pancia, quindi ho soprasseduto un po', però ne ho voglia, voglio sentire il gusto del caffè. Il gusto pieno della vita, una maraverna, oppure? Buono, buono anche quello. Ieri ho visto, avanti ieri, le pubblicità delle televisioni, Philips, Norman, Seleco, Brion Vega, eccetera, ce ne sono state una quindicina, degli anni 80, quando è iniziato il colore, era appena iniziato, che c'era la pubblicità Philips, colore sempre vivo, Telefunke, noi siamo scienza, non fantascienza, tutte quelle cacche, era bellissimo, e vedere com'era la televisione negli anni 80, diciamo 79, era una pubblicità del 79-80, ma era, cioè come è salita la tecnologia nell'arco di 30 anni, anche di più, 80, stiamo parlando 40 anni, dai. È una cosa spettacolare, poi il televisore dotato di televideo, diciamo due canali stereo, tutte cose che adesso sono normalissime in qualunque televisore, il primo televisore con lo schermo quasi piatto, cose che ti fanno ridere adesso. Eia, vabbè, la tecnologia avanza. Io mi ricordo poi i tempi di nonno, no, proprio credo fosse l'80 o giù di lì, cioè per quando compravi un televisore, e poi non ho capito se lo pagava il venditore del televisore, veniva il tecnico a installartelo, a sintonizzare i canali, ti dava delle indicazioni, tipo di non forzare troppo il colore col telecomando, adesso compri e t'arrangi tu. Vabbè, ma chi non lo sa fare, internet c'è anche molti tutorial, non per fare certe cose, poi uno era già grande, magari non era esperto. E stiamo parlando di un secolo fa, un millennio fa proprio. Sì, no, infatti mi sono messo a ridere, cose, 100 canali, c'era questo, il primo televisore al mondo con 100 canali, poi c'era i normandi, quelli picture in picture, l'immagine nell'immagine, io ne avevo uno di quelli lì che ti facevano sino a sei immagini insieme, l'aveva trovato mio fratello vicino a officina, ce l'avevamo buttato, cacca, l'abbiamo preso, messo in funzione, c'era il fusibile partito, era una cosa spettacolare questo coso della Normandy, e poi sotto c'aveva tre televisori, potevi vederti sei immagini contemporaneamente, tre sotto, anzi sette immagini, perché ne facevi una grande, due piccoline sono una, due, tre, sei immagini si potevi vedere. Ah cavolo, sì, e mi ricordo anche le prime apparse dei cosiddetti picture in picture, no? Che vedi per il quadrino oppure i quadri multipli, roba da fantascienza, vabbè, per l'epoca, adesso. Sì, picture in picture, immagine nell'immagine, detto tradotto in italiano. E poi c'erano. Scusate, il telefono, un attimino. Mamma mia, ogni suoneria. Mi era avanti. 9 più 10, è calato abbastanza, da 9 più 20 a 9 più 10. Poi ricordati che il radiale dovrebbe tenere un'inclinazione specifica, che adesso dipende dalla marca della Grand Plain, può essere di tot gradi, cioè dipende dalla marca della Grand Plain, certe ce l'hanno a 45, no? Verso il basso, no? E certe ce l'hanno a 30 gradi. Certo che comunque Nicola, anch'io mi aspettavo qualcosa di più, perché caspita, è pur sempre uno stiro da 2,70 più o meno, no? E quindi anche se circondato dai palazzi speravo qualcosa di più, soprattutto per la zona di Giulio, che alla fine li punti è a un passo. E diciamo sì, allora è così. Guarda, per esempio ti faccio un paragone, Gianni il profeta, no? Sul tetto ha un'antenna come quella che hai tu adesso, una boomerang, quella che io chiamo full size, no, non caricata, ma sul tetto è abissale la differenza già, è abissale rispetto a metterla in basso. Infatti lui già spara forte da lì, e se si mettono a 5 ottavi e magari qualche aiutino fa mangiare polvere a molti. Sono rientrato. Eia, vabbè, gli spiegavo che se avesse la possibilità di metterla sul tetto sarebbe abissale la differenza, perché ora come ora è proprio circondato dai palazzi, tutto è a 360 credo, vai Robè. Ma di cosa? Eia. Vabbè dai, cosa vuoi ti dica? Già si fa sentire, qua è 7 abbondante, la radio è quasi 5, però vale, se vai verso i punti zone così non so se la scopri. Certo che facendo due conti, se da te sono 7 e i punti è più distante. Anch'io speravo qualcosa di più, però è come che fosse in veicolare, alla fine come se fosse proprio all'altezza della serie stradale con un'antenna veicolare. Io te lo appoggio e io te la spingo. Parola di Green. Sono contento. Spingo Bongo. Me Luca Pompelmo. Vabbè, Pompelmo. Ebbè, Luca, mi hanno chiamato mi chiamava, c'è la voce Pompelmo. Che è il Pompelmo? E poi mi stavo pensando, ma non si chiama Pompelmo, si chiama Pomponio. E vabbè, Pomponio mi riempie troppo la bocca, lo chiamo Pompelmo. Qualche esaudito sta senz'altro. Io l'avevo capito subito, si stava confondendo, infatti dai, ha fatto ridere adesso, infatti, ha detto Pompe, poi dopo, poi volte Giovanni si impappina, ha detto entra come Giovanni, fai break e basta, perché molte volte sbaglia, dice break bricco. Eia, break da bricco, oppure break, no, break da bracco, no, e certi dicono, come, chi è? Adesso siamo se aggiusti questa cosa qua, questo apparato, se no cacchio, non ho paura che lo bruci. La preoccupazione è che è un apparato che costa un sacco di su. Infatti dovrebbe almeno mettere le potenze al minimo se ha dubbi sull'impianto d'antenna. Va bene, è entrato Pompelmo, vi lascio con lui, vado a farmi il caffè, definitivamente, dai. A me sono aspettato a fare il caffè, se avessi saputo l'avrei spedito a casa. Perché mi è stata una telefonata, a me che sta arrivando il caffè me a casa tua, sta mandando il corriere. Questa è la colazione per cosa? Per Marco, lui fa la colazione a questo, e poi alle 3 del mattino fa la cosa, il pranzo, lui sì è Marco. Praticamente ho il fuso orario della costa di New York, praticamente, 5 ore di ritardo, diciamo, indietro, no? Aspetta, ti volevo chiedere, ma poi l'avevi visto il video, il link di Luca, mandato a Luca, il video di quella registrazione di Nespoli, famosa? Ci credi, l'ho aperto, poi mi hanno chiamato al telefono e me ne sono dimenticato, ce l'ho salvato dopo, più tardi me lo guardo con calma, perché lo stavo guardando, ho messo tutto, nel momento che l'ho messo mi ha squillato il telefono e poi mi sono dimenticato, ma non l'ho cancellato, già me lo guardo bene, che è già interessante, mi piace. Ieri notte anche non l'avete finita, i signori del canale 10. Io me ne sono andato presto, mi pare, no, ieri notte assolutamente, mi sono dedicato più alla TV, comunque, vabbè, non è importante, è una registrazione così, comunque lì ho usato in veicolare una SG7009, corrispondente quasi a una, non quasi, 3x5 ottavi sarebbe come una X50, capito, messa in macchina. Ma dedicata ai 144? Sì, e poi è una delle tante antenne bibanda che uso con ricevitore in macchina, però la SG7009 è alta 1,50 e fruscia, oltre 1,5 metri, dai, è un bestione. Ah, tu c'hai un'antenna per il coso, per i 2 metri in macchina, non so, però naturalmente esclusivamente per ricevere, no? VU, tutte e due bibande, ma ne ho roba di una decina, se non di più, di tutti i tipi, corte, lunghe, grosse, fini, non fare battute, Antonè. Non ho detto niente io, sono stato zitto, non ho detto niente, mi sono immaginato che stavi parlando di baracchini, anzi baracchini di antenne, non di pisilli. No, non si sa mai, Antonè, con te. Vabbè, sì, ne ho un sacco, una sporta, poi alla fine... Quella più comoda è quella, la NR770, che è una via di mezzo, non troppo pesante, non troppo lunga. E più c'è l'antenna della 26? In macchina, beh no, o l'uno o l'altro, qua solo una volta, robe, mi l'avevo detto a Pompo, una volta avevo messo l'antenna del baracchino, da fermo però, l'antenna del baracchino, l'antenna bibanda per ricevere i radioattori e l'antenna HF per ricevere le HF con ricevitorino Texun, varia il furgone e le sue poste. Ma che macchina c'è tu? Io non ne ho, mamma ce l'ha, un Opel Agila vecchia. No, ho capito. Grigio acciaio. Coso già c'era l'antenna in macchina per le coso, per le U e per le V, come si chiama? Aiutami, radioattore. Aiutami tu, quello che c'è al laboratorio. Ah, Vittorio, nel furgone c'è una Superstation, c'ha di tutto e di più. Non solo, ma una volta a San Francesco ha alzato questo palo tipo PVC, che era ben più alto del palo della luce, una cosa impressionante, no? E ci ha avvolto il cavo vero e proprio in rame, no? Rivestito a spirale, no? E si è fatto l'antenna per i 40 metri, in un attimo mi l'ha piazzata, ma tu devi vedere, impressionante l'altezza di questo palo. L'avevo visto quando fanno la festa a Itidi, fanno la festa del paese, non so che patrone sia, e c'è il vecchio notaio che è morto a Faeda, è un collezionista di radio d'epoca, ne ha tantissime, bellissime, anche se ne ha qualcuna che non c'è, e ne manca qualcuna che ho io ne ho tante, ma lui ne ha molte più di me. E di lì ogni anno fanno i collegamenti, fanno una specie di coso di radioamatore, una riunione, e piazzano un paio di antenne, lui è, diciamo, il capobanda a Vittorio. Mi pare che Vittorio addirittura non abbia antenne HF a casa, però già si rifà dal furgone, è come se si rifà, c'ha di tutto di più, una bella stazioncina mobile, dai. Sì, ho visto, sono molto alte, poi la piegata è legata, se no fa di danno, se faccia a cosa, sottopassaggio di salta varia, tocca talmente alto. Poi naturalmente, volendo, lui aveva anche gli stili della Eco, cioè gli stili da sotto i 2 metri, quella l'ha usata da fermo, si è fermato, l'ha ancorata al portellone indietro, un tubo in PVC, penso fosse 10 metri o giù di lì, forse anche di più, e ci ha avvolto il conduttore, insomma. Poi pigiata la portante, subito risposto, non con difficoltà, proprio a segnale pieno. Io vedo spesso a Fiume Santo c'è questo motorhome di un tipo tedesco grande, un radioamatore, c'ha un traliccio telescopico motorizzato con una direttiva enorme, la direttiva però la piazza, c'è dietro nella coda, c'è un traliccio a motore, tipo quelli che usa l'Escopo, cose così, e c'ha questa antenna direttiva, sarà 5 metri, 6 metri di antenna, enorme, montata sopra il coso, quando gira con questo la base, anche di più di 6 metri, facciamo 8 metri di antenna, perché prende quasi tutta la lunghezza del coso, del motorhome, è una bestia. Lui lo vede, non so che attrezzature utilizzi, questo non te lo so dire, perché l'ho visto da fuori, e si mette con una sedietta fuori, prende appunti e lo vede. Vabbè, sarebbe stato bello, ma poi ho dato tutto, no? Non ne voglio sapere niente, basta spese. Dai, prendete, poi Antonè, io vado in cucina, ciao. Fate il caffè, fatti, almeno sei tranquillo, i cani con latte e tutto. È una per 50, non ce l'hai, Antonè, la allestiamo, le facciamo la stazione mobile. Una per 50, per quello ci pigliamo un furgoncino, scusa, anche non furgoncino, un cane, vediamo, capito? Lo modifichiamo e facciamo la stazione radioamatoriale ECB. Ci mettiamo le antenne sopra il palo che esce dal piantone di giù, telescopico, hai capito? Noi abbiamo fatto un allestimento, diciamo non proprio allestimento, una modifica e eliminazione di tutto quello che c'era dentro, un vecchio furgone, vecchio, era nuovo come chilometraggio, cioè aveva 30.000 km, un Ducato dell'Enel, che ce n'è solo uno in Sardegna di questi qui, che adesso non so se ne abbiamo fatti altri, per misurare i disturbi dei campi, delle linee elettriche, per vedere se creano disturbi e cose del genere, c'era una strumentazione da paura di dentro, eppure all'interno sul tetto ci poteva mettere calpestabile, tetto alto, Ducato piccolo, passo corto era, però con tetto alto, modificato, c'era un palo telescopico che pareva da 10 metri, tipo quello dell'Escopo, che saliva questa antenna, tutto motorizzato, dall'interno comandato in elevazione e in azimuth, in rotazione, cioè il quadro comando ce l'ha ancora conservato, ti dava i gradi in digitale, ti diceva quanti gradi stai spostando e poi quanto è salito e cosa, più c'aveva, quelli li abbiamo lasciati, il sistema di sollevamento del mezzo per metterlo per centrare in bolla, pneumatico, motorizzato, ci sono delle leve che tu schiacci, ti solleva il furgone, te lo tiene sospeso tipo una palafitta da terra, tu devi avere tutto l'impianto da 24 volt, non a 12, un campo, un bancone grande ad angolo dove c'erano tutti i macchinari, vabbè quelli li hanno tolti, sistemi allucinanti di lavoro di questa roba qua, ma dovevi vedere, poi però questo l'ha smontato il palo, quando l'ha preso gli ha detto ma lo vuoi, no, tu glielo e te lo prendi, e glielo lascia. Hai visto, una cosa generale va bene, se c'è il furgone ti metti una bella stazione di lì. piedi e sollevi, con la direttiva, quello che è, una verticale, una canna da pesca. Questo è il palo, era motorizzato, un telescopico motorizzato, ma una cosa di lusso, un bel, cioè, lavoro fatto da professionisti, una ditta di Roma le fa queste cose qua, non stiamo parlando di gente coso, proprio omologato sul libretto, cioè fatto con tutti i canoni, con tutte le cose possibili. C'erano degli inverter da paura, dei sistemi di coso, di col gruppo elettrogeno piccolino per alimentare, guarda, tutto c'era, si poteva attaccare all'esterno, un sacco di roba, ma tutto fatto su misura. E l'ha preso questa ragazza, l'aveva pagata mi sembra 3.000 euro, noi ne abbiamo tolto tutta la roba inutile che non serviva e lei gli abbiamo messo delle modifiche all'impianto elettrico eccetera eccetera, e più lei si è allestito dei lettini per coricarsi, dai. Lei faceva surf, insegnante di surf, e si organizzava così, andava nei posti di coso, c'aveva il posto per le tavole, delle specie di guide dietro, cioè. Addirittura c'aveva un sistema per salire sul tetto, una specie di scala mobile che la tirava in fuori, scendeva, ma tutto a cuscinetto, è una cosa spettacolare. Così c'è, è bello. C'è. Comunque ci sono i paletelescopici in un sito, sarà con sindaco 15 metri se lo vuoi. Ma sto dirando, qui prendi 10 metri la terra sopra, fate da terra alla base e ci fai. No, oh, sei cazzo andata, non ti preoccupare. Vale. Sì, comunque c'è me. In questo sito qua. Una cosa del genere. Ma bellino. Solo che costa. Sì, ma la cosa bella di questi pali, che non li avevo mai visti, cioè visti sì, come si chiama quello dell'Expo, posto avevo visto, però con l'indicazione digitale dell'altezza del coso, c'è un display rossi, a diodi rossi, e ti dice quanti metri sei salito, poi ti dà, dice 6 metri, 8 metri, quello che vuoi lo facevi salire sino a quanto arrivava, dopodiché c'era il limite, si bloccava, e più motorizzata l'antenna per dire tu devi mettere 15 gradi ovest, e c'era scritto 15 gradi, 20, 30 a salire, tutto digitale, più tutte le tensioni e assorbimenti di tutto l'impianto, voltmetro e amperometro, poi una marea di cose che il quadro me lo sono preso io perché ci sono un sacco di strumenti che potrebbero essere utili, però veramente è bello, tutto un pannello grande nero, sarà 60-70 centimetri per 50, dai, vabbè un po' di meno, dai, fai 50 per 60, e tutto serigrafato con tutte le scritte serigrafate, no, non di bottiglie con l'altro, fatto da professionisti. Registrato. Capita a volte. Avanti back. Caricato bene, ti forma, riprendi le forze, Enrica. calorie, tutto in un colpo, dai. Adesso per la notte va bene, una buona digestione, prima di coricarti aspetta un po', allora, se no non riesci a digerire bene, vai Antonio. Beh, quello sì, secondo cosa ho mangiato, non voglio calorie, e mi sono mangiato una di quelle pizze, stasera, di quelle rettangolari di Ruspi, poi ci ho trovato la Ruspi stasera, 15 mascherine, no, non 15, 25 mascherine e 15 euro. Qual era chirurgo? Allora mi ha detto mia sorella, però non mi ricordo dove mi ha detto, 50 mascherine e 25 euro, non so se mi ha detto, Eurospin, no Eurospin, scusa, a Mauris. Io ho visto Eurospin stasera, infatti me la sono presa, quindi 25 mascherine, 15 euro. Noi è che sono finito dove le poniamo quelle chirurgiche, anche se non è che siano molto adatte, però ti arrangi, le abbiamo pagate 50 a 25 euro più, circa 30 euro, dai, più o meno. E vabbè, ci sono oggi, mi. Comunque, questo è oggi, ieri non c'erano perché sono, cioè ieri non c'erano per, anzi ieri era chiuso, alla fine non c'erano neanche niente, oggi invece ci sono, quindi se devi andare a pigliare i mascherini, basta che vai dallo spi, sono vicino alla casa, so. Proprio attaccata alla casa, ci sono le mascherine, se le prendi, questa è quanto vengono, mi metto 15 euro 25 pezzi, va bene, va bene un pacco. Ma sono quelle azzurre o quelle bianche? Quelle azzurre sono. Sì, quelle sono un po' migliori, dai. E anche a me me le hanno portate. Poi ce le hanno fatte amicizie, gente che le fanno belle. Cioè un'amica mia le faceva con le traverse dei... Le conosci le traverse, quelle che si usano per gli anziani? Ne ha fatto un pochettino, però sono troppo bizzarri. Poi ne ha fatte la nonna della fidanzata di mio nipote, a Sorso, ne ha riempito tutto il Sorso. Quelle cucite, belle, con un tessuto chirurgico che l'ha dato anche agli infermieri, al coso, le hanno ordinate pure loro. Però non sono, diciamo, certificate, però diciamo un po' già funzionate. Sì, già lo so, infatti. Sì, sì, poi uso fare anche le mutande mie, c'è una nonna, è per questo. Da tutto te le puoi fare, cacchio. Qualcuno se le fa con la carta a forno, non ho capito cosa cacchio puoi filtrare. Vabbè, forse sì, è come che ti metti lo schermo quello quando tagli col tagliaerba, non li hai visti quegli schermi trasparenti, quelli che usano per tagliare l'erba, con il cespugliatore, c'è gente che c'è anche con cui. E tu Riccardo te lo metti lo schermo? Ah no, scusa, ho detto lo schermo, una fesseria. Le mascherine volevo dire. Brecca da Bracco. Bracco, avanti. Chi è quello che mi ha risposto? Roberto, il più forte qua. Cazzo no, chi altro c'è in frequenza, Roberto? No, adesso ho fatto dei collegamenti in HF, no? Ma a bomba proprio, no? Con uno di Latina e con uno di Torino. Ieri ho fatto un collegamento da Petra addirittura, c'era una che si chiamava, non mi ricordo il nome adesso, comunque da Petra in Giordania, però la bombardavano tutto il mondo che arrivava, questa faceva questo e rispondevano a tutto il mondo, sono riusciti a entrarci per miracolo perché c'erano radioamatori potenti di meno, comunque mi ha risposto da Petra addirittura. Cazzo, in Giordania non è vicino, ma che lì con l'inglese? No, questa parlava tutte le lingue, parlava l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, è un fenomeno, una donna. Bello, non è mai capitato a me. Petra è un po' complicato da collegare, c'è anche Riccardino e Antonello Pompunio. Riccardi, riprenditela tu un attimino, mi hai detto della mascherina, scusa Riccardo. Carnevale. Ehi, è solo a Carnevale, l'ultima volta forse a Carnevale. Avanti Giovanni. Lo so, piatto. A Robertino perché è fortunato che è in campagna, attualmente in campagna, se non mi sbaglio, attualmente in campagna non c'è bisogno di mettere le mascherine. D'ora in poi Roberto sarà un problema. Un problema diciamo per quelli che devono tenere una mascherina tutto il giorno in faccia, cioè nei negozi alimentari, nei supermercati, in estate sarà un problema. Tra l'altro ho sentito stamane che è probabile che non possano mettere nemmeno l'aria condizionata, dice perché è pericolosa per il coronavirus, non sanno più che cavolo inventare, porca miseria. Stanno sanificando, un amico mio in banca dice, è tre giorni che sta soffrendo il caldo da morire perché la sera dice ce l'hanno in pieno il sole e hanno chiuso l'aria condizionata perché le stanno sanificando al Banco di Sardegna qua vicino e vediamo un po', bravo che ti dica, noi l'igienizzazione dei filtri e abitacolo, i filtri antipulline vuole fatta ogni anno, bisogna sempre cambiarli anche di più, teoricamente ogni 6 mesi va fatta in macchina, indipendentemente dal coronavirus o no, perché ci sono i batteri eccetera eccetera, si formano delle muffe e sono un po' pericolose soprattutto per i bambini quando non hanno ancora i coso allergici, fatto gli anticorpi per le allergie. Ok, noi lo facciamo spesso, esistono dei prodotti che si iniettano, si chiude tutto l'abitacolo, si spruzzano all'interno per 5 minuti e teoricamente dovrebbero pulire un pochettino e ammazzare qualche batterio che c'è di lì dentro, ma quello indipendentemente dal coronavirus. Ok, allora riprendete il mic e vediamo un po'. L'unica cosa qua per il coronavirus, sai cos'è? Il vino, metti un po' di aceto dentro, sai come ammazza i batteri? Giovanni ne ha uno più forte. Giovanni, cosa fai tu per il coronavirus? Ultra. Giovanni, cosa fai per il coronavirus? Giovanni? No, io c'ho una roba particolare, nessuno mi vuol credere. C'è usato mio nonno nel 1918, che ha salvato la famiglia e mezzo paese, si può dire. Ed è vino diciamo con una testa d'aglio e un etto di fichi secchi, bollito, lo filtri e come hai dei disturbi diciamo lo bevi. Io penso che si è servito alla pandemia del 1918 e io penso che sia utile anche oggi. Comunque il vino è un ottimo disinfettante. C'è anche un po' di filo verde ancora di più. Non è male, figli Ferro, devo essere sincero, perché ho visto uno di urune l'altro giorno. Ma che cosa bicchiere, mi contro su coronavirus? Un filo verde, un attimo. Cayenne. E di lì, quelli anziani, quelli di tutte quelle donne lì del Morese, non ne hanno bisogno di vaccino di niente, quelle sono persone sane, mangiano cose sane, e infatti tutta quella zona lì l'Oliazza, c'è gente ultracentenaria, ma non uno, ce ne sono decine per non dire centinaia, e l'alimentazione, l'aria, non si sa che cosa, ma sono tutte persone, mediamente superano i 90 anni tutto il paese. No, no, no, attenzione, sono vaccinati dalla natura, la natura protegge le sue creature, se tu esageri con questi cavolo di vaccini e palle varie, la gente la rovina, non c'è nulla da fare, io non so quasi certo, intendiamo, ci sono i vaccini necessari come quelli che hanno fatto a noi per il vaiolo, per il tetano quando ero io militare, ma poi non si deve andare oltre, io non l'ho fatto più poi. Io già lo so, infatti ci sono dei vaccini inutili, stanno cercando di far soldi le industrie farmaceutiche, ieri abbiamo fatto un bel discorso, un bel argomento, non puoi farti il vaccino per tutte le malattie che ormai sono scomparse da centinaia di anni, la peste, cosa mi faccio? Il vaccino per la peste, il vaccino per l'ebola, il vaccino per cosa cacca ne so, adesso il tetano ormai siamo già da almeno una quindicina d'anni l'antitetanica, a meno che non hai subito delle infezioni, magari una lesione, un taglio, una ferita, magari te lo fanno per cosa, ma in linea massima siamo tutti, come si chiama, immuni al tetano, come il coso, il vaiolo, non si fa più, prima quando ero piccolino si faceva l'antivaiolosa, me lo ricordo all'elementare. Beh, è naturale, anche me non faccio attenzione, ho il tetano è tutta un'altra minestra, vero? Se ti ferisci con un peso, se ti ferisci con un peso di ferro arrugginito, oppure ti ferisci e tocchi del terreno, un esempio pratico, e anche se non fai, per sicurezza meglio farlo antitetano in questo caso, non parliamo al vaccino che stanno facendo adesso l'influenza, perché quelli sono pericolosi. E proprio di quello abbiamo parlato, sono dei cosi, dei vaccini, perché i vaccini vanno testati per tanti anni, non è che tu fai una statistica e diciamo in linea di massima va bene, tipo l'antipulio che hanno tirato fuori il nuovo, che sono più le persone meno matte che quelle sane, di quanti danni hanno fatto con quella roba lì. Non parliamo col coso, il vaccino, quell'altro che fanno i bambini piccolini in età quasi, non dico neonatale, ma un po' di più, sono tutti pieni di coso, di sintomi di autismo e cose varie. Vabbè, ieri ne abbiamo parlato tantissimo. Il problema è che devono fare cassa le industrie farmaceutiche, ogni tanto se ne inventa qualcosa di nuovo. L'ho detto ieri, in Italia ne abbiamo 12 di vaccini, in altre nazioni non si sa per quale motivo ce ne sono o 6 o 8. Francia e sei in Germania, chissà perché c'è qualcosa che non quadra. Ma è naturale, le case farmaceutiche sono delle arpie, maledizione, io lo sai che una volta avevo, diciamo che c'è un prodotto naturale, un fungo, che i sardi conoscevano da 2000 anni fa addirittura, e si chiama in Sardegna il businato, ed emette una muffa gialla. E mia nonna ce l'aveva sempre in tasca, quando si feriva usava quella, era una specie di penicillina, ti puoi immaginare quando la conoscevano in Sardegna, la penicillina. E se tu lo dici alle case farmaceutiche, loro cercano di capirti il mistero, il come si chiama, ti dicono firmiamo un contratto di segretezza, poi se la roba funziona, loro sai cosa fanno, brevettano la molecola e t'attacchi al tranzo, ultimamente molta gente ha preso delle fregature per queste cose qua. Sì, lo so bene, meno male quella che c'era a Suni, quella signora, adesso ci sono i parenti, i pronipoti, quella che curava le bruciature, quella gli avevano proposto la Carlo Erba, non so quanti soldi all'epoca, me lo racconta sempre mio padre, e lui ha avuto un'ustione al braccio, gli ha scoppiato il cannello da ragazzino e non ha nessun segno, niente, non è rimasta nessuna traccia dell'ustione. L'ha curata questa donna con una penna di piccione, e gli ha passato questa specie di liquido che dice solo il dolore, carne viva era. lui era tutto bruciato il braccio, quando gli ha passato questo unguento, che non si sa di che cosa sia, dice il dolore è atroce, come che ti passino il fuoco sopra. Nel giro di un mese gli è scomparso tutto, non ha nessuna traccia, la pelle si è riformata come quando è nato. Sì, quella era famosa, adesso non so, mi sembra che il mistero, come cavolo chiamano la formula passata alla figlia, però hanno tentato di fregarla, non so se l'abbia venduta quella formula là, però mi sembra che aveva curato anche a Niki Lauda, non mi vorrei sbagliare. Questo non lo so, comunque da tutto il mondo sono andato a farsi curare, non vuole soldi, tu fai un'offerta se la vuoi dare in base alle proprie disponibilità. Io conosco tanta gente, c'è andata e ha risolto dei grandi problemi, a un bambino che gli è caduta l'acqua bollente, il figlio di una amica nostra, gli è caduto il pentolone e l'acqua bollente addosso, questo bambino ci aveva 3 anni, completamente ustionato, bruciato, e ha avuto grandi miglioramenti. E naturalmente non è che puoi fare miracoli, però per ustioni profonde qualcosa riesce a fare. Ok, Riccardi, avanti a te. Non ho capito cos'è? Allora, io non vorrei dire che ce ne siano due, però quella più famosa era di Suni, un paese, io credo che sia nella zona, quella zona mi sembra Bosa, però io ne ho sentito un'altra che era nella Gallura. Chiedo conferma a Giovanni, che lui fosse più informato. Che tempio è quella che sei sotto?